1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, che è venerdì alle 7:18 minuti e anche la 146esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è finita, quasi. E le province sono lì, e allora la 147esima sarà quella buona, me lo sento. Allora. Che dobbiamo dire? Che oggi abbiamo ospite Alfio Marchini. Colui che è un po' il protagonista di questa che svolta forse di Salvini, che dice Bertolaso non ci piace molto più come candidato del centrodestra dietro front, e si vocifera perché la Lega vorrebbe appoggiare Marchini a Roma. Sarà ospite nostro alle 8:40, vedremo che cosa ci dirà su Roma e anche su questa cosa. Intanto i giornali. È venerdì 19 febbraio, i titoli, il Sole 24 Ore apre su banche, euro aperture per l'Italia, Piazza Affari frena, meno 1,5 con i titoli bancari, questo è il titolo di prima pagina. Però certamente è il Papa anche che conquista molti titoli principali, perché le sue parole sul viaggio di ritorno dal Messico hanno fatto molte polemiche. Il Papa e Trump, un caso sul voto americano, perché dice di Trump non è un buon cristiano. Poi Francesco dice sulle unioni civili l'Italia non è il primo paese, i cattolici decidano in coscienza, e comunque il Papa dice non mi immischio nella politica italiana. Repubblica, il Papa neutrale sulle unioni civili e Trump non è un buon cristiano. La Stampa addirittura va oltre. Francesco scomunica Trump. Il Messaggero, il Papa, Trump non è cristiano. Come vedete è il titolo più gettonato. Anche l'Unità mette le parole del Papa in prima pagina. Laudato sì, lo stile di Bergoglio sulle unioni civili. Il Papa non si immischia nella politica italiana. Avvenire, ovviamente, le parole del Papa. Il Papa, alzare muri non è da cristiani. E Trump lo attacca, c'è la risposta che è già arrivata di Donald Trump, dice vergognoso il Papa. E poi c'è chi apre come giornale sull'immigrazione e il debito, tutti contro tutti, questo in Europa. Libero invece, ora Renzi vuole le elezioni, l'economia non va e il governo sarà costretto a fare una pesante manovra correttiva che farà precipitare il consenso di Matteo, prima vuole portarci al voto anticipato. Mentre Il Fatto Quotidiano apre sulla notizia della sanità in Lombardia, un approfondimento, e da qui voglio partire anch'io perché ho letto degli articoli che mi hanno davvero sconvolto oggi. Tutti politici di Lady Dentiera, così è stata soprannominata Paoletta Canegrati, imprenditrice, che è stata anche lei invischiata in questa vicenda della sanità lombarda, perché l'accusa è quella, presunte tangenti per ottenere appalti. Lady Dentiera, racconta Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, era molto attiva non solo in Lombardia, anche appuntamenti nelle altre regioni. Per esempio c'è questa intercettazione di l'architetto della Canegrati che parla con un altro interlocutore e parlano del Piemonte. Siamo andati in Piemonte, il direttore generale della sanità fa, ma lei Canegrati come fa a fare quella roba lì? E gli si commenta al telefono, beh sarebbe un gran colpo riuscire a entrare in Piemonte. Io con Chiamparino ho dei rapporti eccezionali, e l'architetto della Canegrati, beh noi siamo trasversali, chiunque vinca, gli affari migliori si fanno sempre coi comunisti. E poi si parla anche di Tosi, si racconta addirittura di una campagna elettorale sostenuta a Flavio Tosi con un finanziamento da 10.000 euro attraverso la fondazione Ricostruiamo il Paese che sostiene Tosi. Si parlano insomma di vari appuntamenti, ma gli articoli che mi hanno più sconvolto, detto che Maroni scarica lo stesso Rizzi, cioè è il presidente della regione che del suo fedelissimo dice ci sono prove schiaccianti contro di lui. L'articolo che però mi ha proprio più colpito l'ho trovato sul Giorno. Perché come si diceva qualche giorno fa, in queste storie brutte c'è sempre anche il lato positivo. Qualcuno che ha denunciato, abbiamo parlato di questa commercialista che ha fatto partire il tutto, qualcuno che ha provato a denunciare, come il caso di Mario Cirincione, 69 anni, ex primario alla chirurgia maxillofacciale al Niguarda, ospedale di Milano. Racconta la storia amara di una Cassandra inascoltata, lo fa con il Giorno, intervistato da Marinella Rossi a pagina 10. E dice degli albori del passaggio nel 2004 delle cure dentistiche date in appalto dentro gli ospedali ai presidi odontoiatrici della Galassia di Paoletta Canegrati. Era il 2005, racconta il professor Cirincione. Arrivò dagli ambulatori una donna che era in cura da un dentista privato. Aveva in bocca un tumore grosso come una noce, un evidente carcinoma. Le feci fare una biopsia che confermò il cancro. Tempo dopo morì. E mi colpì della vicenda, due cose mi colpirono. La paziente, in cura da un dentista esterno, era stato diagnosticato un fungo. E il suo medico curante privato era il dottor Vincenzo Nicotra, che non conoscevo ma era stato appena nominato dirigente della Dental Service, presidio dentistico dato ai privati, appalto ha vinto dalla Canegrati al Niguarda. Vedi una massa del genere nella bocca e non sei in grado di diagnosticarla, non puoi venire a lavorare nel mio ospedale. Presi fotografie, ricette, referti, le portai al direttore sanitario, facendo presente le perplessità. Quel medico era almeno adatto a ricoprire il ruolo. E cosa successe? Niente, non successe nulla. E intanto mi erano arrivate altre avvisaglie, persone molto povere, cui venivano suggerite cure e interventi inutili, una decina di casi. Un giorno arrivò una povera etiope, disperata, non aveva soldi per pagare i lavori che le avevano detto di fare. Mi fece una gran pena. Parlavano di ricostruzioni, otturazioni. La visitammo, aveva denti bellissimi, bianchi, perfetti, del tutto sani, non aveva una carie. Insomma, se si propongono cure a chi ha denti sani, se si fora, si rompe, si trapana inutilmente, si reca danno alla salute, tornai in direzione, mandai perfino una lettera protocollata in cui scrissi che non si trattava di micologia, che la gente veniva da noi per farsi curare, che consideravo illegale, vile e turpe questo comportamento. E la direzione sanitaria? E mi dissero in procura vacci tu. E ci sono andato dai NAS, da un PM, nulla. Fui richiamato dai carabinieri nel 2008 e nel 2011 per raccontare la stessa storia. E se ne accorgono solo ora? Si chiede ora questo ex primario. Io sono uscito dal Niguarda nel 2006, a 60 anni, migliaia di interventi alle spalle, troppo amareggiato. Volevo tornare a vivere ed essere felice e chissà se tutto questo sarà di lezione per politici e dirigenti sanitari. Ma impressionante questa testimonianza di questo professor Cirincione che dice tutto si sapeva già. Guardate questa bella cifra spiattellata a pagina 11 della Stampa riguardo la sanità. Carola Frediani lo racconta, dalle bustarelle alle visite in nero la sanità perde 6 miliardi di euro l'anno. 6 miliardi, eh? Una bella cifra, eh? 10 milioni di visite private nascoste al fisco. Esenzioni fasulle, soldi per anticipare gli esami, lo scandalo delle presunte tangenti sugli appalti per le forniture odontoiatriche in Lombardia, al di là delle inchieste, dimostra che il settore sanitario non sta bene. Corruzione e frode nella sanità varrebbero 6 miliardi, più del 5% della spesa sanitaria pubblica, è il dato del libro bianco ISPE Sanità 2014. 6 miliardi. Curiosamente, tra l'altro, questa stessa cifra, 6 miliardi, la troviamo per tutt'altra vicenda saltando sul Messaggero. Sul Messaggero, intervistato da Andrea Bassi, parla Massimo Varazzani. Chi è? È l'ex commissario straordinario per il debito a Roma. Infastidito dal fatto di aver letto ieri sul Messaggero che secondo l'attuale commissario Silvia Scozzese ci sarebbero 13,6 miliardi di buco, Massimo Varazzani dice ci sono 6 miliardi disponibili, la Scozzese si legga le carte. perché sapete, l'ho detto varie volte, che in Italia anche nei conti pubblici 1+1 non è detto che faccia 2. Quindi in questa intervista Massimo Varazzani dice: io respingo tutte le accuse di fare chiarezza, è tutto chiaro, le carte sono tutte in Campidoglio, abbiamo restituito 600 milioni alla città, abbiamo risparmiato il commissariamento nel 2013-2014 salvando anche l'ATAC, è tutto lì, ci sono 6 miliardi a disposizione, l'attuale commissario legga le carte. Allora, ci sono 13,6 miliardi di buco o 13,6 miliardi meno 6 miliardi che sono a disposizione? Ripeto, la matematica nei conti pubblici è un'opinione, signori. Ma siamo al premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata, e quest'articolo veramente mi ha fatto imbufalire. Corredato da foto che ho messo sul mio profilo Twitter, Alino Milan, le potete trovare. Racconta tutto Oscar Grazioli sul giornale. E racconta di questa tragedia, tragedia per un delfino, ma tragedia soprattutto umana, se ci guardassimo allo specchio un po' di più. Succede questa storia in Argentina, nella spiaggia di Santa Teresita. Quel delfino ucciso per un selfie. Succede, come scrive Grazioli, che l'arroganza dell'uomo, la violenza del suo egoismo sulla natura si esprimono quotidianamente in mille modi diversi. Questo è successo a Santa Teresita, Argentina, dove un gruppo di persone prendeva il sole in spiaggia. A un certo punto un bagnante vede un piccolo di delfino vicino alla spiaggia. «Guarda che bello!» E lo prende. Lo prende in braccio, lo porta fuori dall'acqua per un selfie. A quel punto la voce si sparge in spiaggia, arriva un capannello di persone e voi vedrete queste foto, se le cercate, tutte le persone che si passano come una palla da rugby, il delfino, il piccolo delfino, per fare un selfie. Facciamo un selfie anch'io, eccolo qua, 10 persone, 20 persone, 100 persone che si passano di mano in mano questo delfino che nel frattempo muore per disidratazione, perché non può stare sotto il sole cocente più di tot minuti sotto l'acqua. Il sole picchia, cuoce la pelle e poi, dopo pochi spasmi, non si muove più. È morto! Urlano e probabilmente tornano a giocare a tamburello come dei coglioni sulla spiaggia. Agghiacciante quello che dicono! È una vergogna! Alessandro mio, alla catanzarese, Alessandro mio, che vama te dico, che vama te dico io. Quando lei è il giornale, Alessandro mio, a me ti ricordi, con l'occhio te veo io e con l'altro te coglioneo. Allora, io non sono sicuro di avere capito tuttissime le parole, però la rima baciata... E come dire, non è male, caro ascoltatore. Allora, grazie per questa straordinaria sigla. Dobbiamo parlare delle parole del Papa. Il Papa è stato durissimo su alcuni temi. Tutti i giornali raccontano di come si è entrato a gamba tesa nella competizione elettorale negli Stati Uniti, di fatto, nei confronti di Donald Trump, che vuole costruire 2500 chilometri di muro con il Messico. E allora dice, sentite come risponde dal volo papale, no? Quando si va in aereo il Papa ogni tanto, quando va in aereo parla poi con i giornalisti, no? I voli di ritorno, ma dice quest'uomo non è cristiano, una persona che pensa soltanto a fare muri e non ponti non è cristiana, quanto a votare e non votare non mi mischio, certo non mi mischio, però dicendo Donald Trump non è cristiano. Tra l'altro, aggiunge il Papa, bisogna vedere se ha detto così, perciò do il beneficio del dubbio, ma Donald Trump ha proprio detto così. E quindi Donald Trump non è cristiano. Insomma, tra l'altro la risposta di Donald Trump è arrivata a stretto giro. Ha detto questo il possibile candidato repubblicano alla Casa Bianca, colui che corre alle primarie per i repubblicani. Papa Francesco dice che Donald Trump non è una brava persona, ma io sono una brava persona e sono un buon cristiano, orgoglioso di esserlo. E poi dice anche se e quando il Vaticano venisse attaccato dall'ISIS, che come tutti sanno è il massimo trofeo che i terroristi vorrebbero avere, vi posso garantire che il Papa si metterebbe a pregare perché Donald Trump fosse il presidente americano. Queste dunque le risposte, il botta e risposta. C'è da dire che però il Papa ha parlato anche di altro, per esempio ha parlato del virus Zika e ha aperto in qualche modo la contraccezione, perché ha detto evitare la gravidanza non è un male assoluto. In certi casi, come quelli del beato Paolo VI, era chiaro, esorterei i medici certo a trovare vaccini, cure, però ha fatto un'apertura su questo, sul virus Zika, e poi ha detto non mi immischio sulla politica, nella politica italiana dal punto di vista delle unioni civili. Tra l'altro Paolo Rodari racconta su Repubblica a pagina 3: Francesco non si mischia con le vicende della politica italiana, e a proposito delle unioni civili che scaldano il Parlamento, pensa ciò che la dottrina della Chiesa ha sempre detto. Quindi lui non si immischia, perché la linea di Francesco è che a relazionarsi con le vicende politiche di ogni paese debbano essere le conferenze episcopali, quindi i vescovi, col governo arrangiatevi voi, ha detto appunto ieri, in buona sostanza, il Papa con queste parole. Comunque ci sono tante dichiarazioni e tante spunti derivanti dalle parole del Papa. Riguardo alle unioni civili, io vorrei fare una breve pausa, tanto settimana prossima poi si riprende. Verrebbe da dire mo basta, ma insomma si andrà avanti. E ora il PD studia maggioranze variabili sulle unioni civili. Questo almeno fa sapere il Corriere, ma facciamo così, dateci una tregua per il weekend. Dateci una tregua per il weekend, almeno, giornali. Dateci una tregua per il weekend. L'ho detto tre volte, chissà se l'appello arriverà dalle parti di qualcuno. Allora, però c'è da parlare sempre del complotto. L'economia che frena, l'allarme OCSE sulla crescita, riviste nettamente al ribasso le stime del 2016, come racconta Marco Mussanè sul Sole 24 Ore a pagina 7. L'Italia dunque da più 1,4% è rivista con una crescita al più 1%, ci siamo persi 4 punti percentuali, questo nelle previsioni dell'OCSE. E c'è questa idea del complotto. Allora, intanto, l'articolo più interessante sui conti, forse lo scrive Alberto D'Argenio su Repubblica, un'indiscrezione a pagina 11. Padoan ha trattato col ministro delle finanze francese Moscovici, con il commissario degli affari economici Moscovici francese, e ha trattato che cosa? Beh, è un negoziato che è stato una cena riservata, una cena privata, una cena un po' lontano dagli occhi pubblici, tra il nostro ministro Padoan appunto e Moscovici. Padoan tratta con Moscovici, spunta un tesoretto per raccogliere 2 miliardi, scrive D'Argenio su Repubblica, una correzione da 2 miliardi, ma non sarà una manovra bis, un'operazione politicamente indolore, fatta di semplici provvedimenti amministrativi, mettendo sul piatto un tesoretto che Renzi conserva gelosamente da dicembre. In cambio, da Bruxelles arriverebbe il via libera alla legge di stabilità, ma soprattutto un nuovo margine di flessibilità sul deficit per il 2017. Insomma, tra mille difficoltà, polemiche, attacchi, marce indietro, il negoziato tra governo e Commissione europea sui conti pubblici sta prendendo forma, e lo ha fatto già in una cena riservata appunto tra Moscovici e Padoan. Al momento, tramite canali riservati, la Commissione chiede una correzione del deficit dello 0,15%, dunque 2 miliardi. In questo modo l'Italia chiuderebbe il 2016 con un disavanzo del 2,35%, di fatto uno sconto di 15 miliardi sul risanamento, visto che originariamente Roma avrebbe dovuto chiudere l'anno con un deficit all'1,4%. Comunque, uno dei tasselli del negoziato è la correzione da 2 miliardi, che non arriverebbe con una manovra bis classica che Renzi rifiuta, ma il piatto sarebbe coperto con la compressione di una serie di spese per via amministrativa. Quindi tesoretto da 2 miliardi. Ma insomma, è da due giorni, l'abbiamo detto, che c'è questa idea del complotto. Io ho commentato stamattina, ma sapete, al mattino un po' sfiduciato, se ripartono queste cose del complotto europeo contro l'Italia io vorrei dimettermi dall'umanità, se possibile, se ci fosse un posto dove andare a firmare. Però il complotto è già dentro di noi, è già fuori di noi, è già in noi, è già attorno a noi, e uno dei complottari indicato in maniera anche pubblica dalla stampa ieri è Mario Monti, l'ex premier, che oggi rilascia un'intervista al Foglio e parte proprio da quell'intervista, da quelle indiscrezioni sulla stampa. Io ho capito, nella sostanza sarei il portavoce di una spietatissima Europa che si muove nell'oscurità più tetra per far cadere il presidente del Consiglio. Ho capito, interessante, e ride Mario Monti, che poi parla e dice perché difende l'Europa. Lo dico da europeista, quasi da dire sfegatato. L'Europa sta diventando, soprattutto nel Consiglio europeo, una accozzaglia di interessi politici nazionali. I politici guardano ai prossimi sondaggi. Il presidente Renzi ha molti meriti che gli ho riconosciuto e ha mostrato coraggio fin dall'inizio in diversi passaggi, ma la rappresentazione ostile e derisoria dell'Europa che è solito fare è un gioco distruttivo a cui l'Italia purtroppo sta partecipando più di ogni altro paese. Non sono sicuro che non riuscirà a ottenere nulla così. Posso però dire che per il bene dell'Italia e anche dell'Europa mi auguro che la Commissione non sia permissiva sul tema della flessibilità. Al che il direttore del Foglio, Cerasa, dice: ma scusi, sta dicendo che spera che la legge di stabilità venga bocciata dall'Europa? Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che un paese che si autoconvince che le leve giuste per azionare la crescita si trovino nella flessibilità commette un errore. Almeno per due ragioni. La prima è che è profondamente diseducativo far credere che i problemi dell'Italia siano in Europa. E dobbiamo essere onesti, l'Europa ha avuto il merito di indurci, anche con regole non perfette, a essere più responsabili. Se no, passa l'idea che, come sempre, paga lo Stato pantalone. La seconda ragione per la quale diffido quando si parla di flessibilità è che nel caso specifico la flessibilità che il governo richiede in questa legge di stabilità è pericolosa per l'Italia e per l'Europa. Insomma, così Mario Monti sul Foglio. Caro Mauro Meazza, hai sentito gli ammonimenti dell'ex premier? Ho sentito, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Ma devo dire che anche su Sole 24 Ore oggi accostiamo in una coppia delle prime pagine due questioni europee abbastanza dedicate, per dire così. Forse per usare un eufemismo, da una parte Brexit, sai che c'è questo, queste sono queste richieste da parte appunto della Gran Bretagna di nuovi vincoli, nuove condizioni per restare nell'Unione Europea, e dall'altra la questione dei migranti con la decisione dell'Austria di chiudere di fatto le sue frontiere, quindi l'Unione che invece censura questa decisione. Ecco, ti inviterei alla lettura di questi due nodi che mi sembrano molto evidenti e reali, insomma, al di là delle interpretazioni poi che possono venire dalla politica. Vorrei che tu ti segnassi diverse cose. Hai l'agenda? Eccolo qua. Oh, bravissimo. Allora, innanzitutto domani ricordati che c'è Plus, e non dire altro, succedono anche altre cose domani, ma questo non è cosa che ti riguardi. Plus, cioè il nostro settimanale dedicato al risparmio e alla finanza. Mm-hmm. Perché te lo dico? Perché ti devi segnare che martedì 23, sì, giornata in cui succedono pure altre cose calcistiche, ma glissiamo anche su queste, sì, comincerà i tuoi soldi, non i tuoi due eurini a Milano. Il manuale, la guida di educazione finanziaria del Sole 24 Ore, tutti martedì dal 23 con il Sole 24 Ore. Poi settimana prossima è attesa la partenza del concorso della scuola, cioè il completamento delle normative necessarie. Ne riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, nella parte di imprese e territori, c'è questo concorso per 63.000 e oltre. E poi guarda che abbiamo praticamente definito l'accordo per lo scambio di dati fiscali con gli Stati Uniti. Mm-hmm. Quindi se i tuoi due urini li volevi mettere negli Stati Uniti, ecco, sappi che comunque saranno perfettamente percettibili, permeabili per il fisco. Molte altre cose ti vorrei dire, mi limiterò soltanto al fatto di Arexpo. Tu ti ricordi l'Expo? Eccomi, è presente? Bravissimo. Ecco, c'è un problemuccio che bisogna capire che si fa con quell'area lì dell'Expo. Allora, riferiamo oggi in imprese e territori, c'è stata questa intesa, entrerà il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sarà l'azionista in maggioranza e dovrebbero partire i lavori per decidere cosa fare dell'area dell'Expo. Questo e molto altro, ma vedo che il ma vedo che i pronostici non mi vanno più, sì, non ne azzecco più. Ma con chi giocate voi? No, non lo so e non vorrei neanche. No, come non lo sai? Dai, lo sai. Con chi gioca? Con la Sampdoria, forse. Ma guarda, mi pare, ma non sono così. Ma no, ma non ne azzecco più i risultati. Vabbè, comunque pareggerete, dai. Va bene, ecco, puoi fare anche un numero, il pareggio? Ma no, dai, pareggere, non ne azzecco mai i numeri. Pareggerete. Va bene. Allora, tutto ciò premesso, naturalmente, una buona domenica, soprattutto calcistica per te, e una buona domenica invece reale per tutti. Noi giochiamo lunedì però, quindi... Ah, giocate lunedì? Sì, giochiamo lunedì. Allora un buon lunedì. Sentiamo lunedì, ti rifaccio gli auguri molto volentieri. Va bene. E traffico! Alessandro Milan, il gattaro dell'informazione. Beh, non male. Allora devo salutare Alberto che tutti i giorni mi scrive: ti ascolto da Dubai, ma non mi saluti mai, con una bella rima baciata. E eccolo qua, ciao Alberto. E poi devo fare un saluto particolare per la carta costa, ma tra poco. A un piccolo bambino che mi ha scritto tramite il suo papà. Allora, però la politica, siamo appunto in ambito di complottoni e Maurizio Belpietro, oggi direttore di Libero, scrive in prima pagina che Renzi vuole il voto entro un anno, cioè andrà così, siccome l'economia va male, non va come si vorrebbe, l'OCSE ha rivisto al ribasso la crescita, Renzi dovrà fare una manovra correttiva, il suo gradimento popolare dunque calerà e dunque Renzi vuole andare a votare prima. Per la verità, la stessa lettura, non viste le premesse, ma la stessa conclusione, cioè si voterà prima, c'è anche sul Corriere della Sera. Oggi Maria Teresa Meli racconta che Renzi ai suoi ha fatto capire che potrebbe anticipare il congresso nazionale del PD a dicembre del 2016, soprattutto se va bene tutto il referendum, ovviamente per la riforma costituzionale, anticipare a dicembre il congresso del PD, a quel punto andare a votare nella primavera del 2017. Ora, è vero, non è che il premier sceglie quando si vota, però sapete come funzionano queste cose, basta creare degli incidenti parlamentari, far vedere che non c'è più la maggioranza e trac, si va a votare. Comunque, a proposito di voti, noi avremo ospite Marchini, che è il candidato, uno dei candidati a Roma per il comune di Roma, Alfio Marchini, e è protagonista anche forse di un clamoroso voltafaccia, di un clamoroso, una clamorosa inversione a U. Ieri Matteo Salvini ha detto in pratica che Bertolaso non è forse il candidato della Lega. Apriti cielo, ma come? Berlusconi che chiama Salvini, Matteo, non possiamo andare avanti così, c'eri anche tu quando abbiamo scelto Bertolaso o sbaglio? Ora non possiamo più rimangiarci la parola data, tanto che Berlusconi poi in serata ha fatto un comunicato dicendo Bertolaso è il candidato indicato dalle tre forze del centrodestra, cioè Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. La Meloni che dice Salvini si rimangia la parola, allora io non gli parlo più, non vengo più ai vertici, e il sospetto, secondo molti, è che Salvini possa puntare, e qui veniamo all'ospite di oggi, su Alfio Marchini come suo cavallo di battaglia per la candidatura a Roma. Lo scopriremo ovviamente alle 8:40. Tra la politica e la cronaca, abbiamo più o meno detto tutto. Ci sono altre storie che vorrei leggere, tipo questa di un papà che scrive a Repubblica e fa una battaglia per il proprio figlio, la battaglia del padre di un ragazzino di Foligno. Vorrei accedere all'iPhone di mio figlio che è morto, perché lì sono custoditi tutte le sue ultime foto, tutte le sue ultime scritte. Ma non mi danno la possibilità di accedere la Apple perché non ho il codice. È una vicenda dolorosa, ovviamente raccontata da Laura Montanari. La vita di mio figlio morto ancora nel telefonino, ma ora Cupertino nega il mio diritto ai ricordi. È un tema molto che si lega anche alla richiesta, ben, come dire, più mediaticamente diffusa, dell'FBI, che ha chiesto di forzare, diciamo, il telefonino di un attentatore, Syed Farouk. Comunque questa storia la trovate su Repubblica. Ma eccoci qui, c'è la carta costa, e la carta costa oggi la voglio dedicare con un grande abbraccio al piccolo Pietro, che forse ci sta ascoltando, perché tutti i giorni il papà Giovanni lo porta in prima elementare a scuola e ascolta la carta costa. E allora sappi, Pietro, caro Pietro, che oggi Elvira Serra racconta in una mezza pagina sul Corriere della Sera che Scamarcio e l'Agolino forse si sono lasciati. Non sai chi sono, non importa, adesso il papà te lo spiega, ma è importante, è lei che lo ha lasciato, forse tra Scamarcio e Valeria Agolino. Caro Pietro, è finito l'amore. Ma chi se ne frega!